A soli 35 anni, nel 1870, Mark Twain, pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain inizia a scrivere la propria autobiografia, ma non ricavandone grande soddisfazione. Solo nel 1904, dice lui mentre era a Firenze, imbroccò il modo giusto di scrivere un'autobiografia e ne stilò la ricetta. Allora, cominciate con nessun periodo particolare della vostra vita. Errate liberamente attraverso la vostra vita, parlate solo di ciò che vi interessa al momento, lasciatelo cadere nel momento in cui il suo interesse minaccia di svanire e indirizzate il vostro discorso verso il nuovo e più interessante argomento che nel frattempo vi si è insinuato nella mente. Inoltre fate in modo che la narrazione sia la combinazione di un diario e di un'autobiografia. In tal modo avrete il vivido presente a contrastare con le memorie di cose analoghe del passato. E questa specie di contrasti ha un fascino proprio, assicura Mark Twain. E viste le premesse teoriche, è comprensibile come Twain si affidò ad una stenografa che scrivesse sotto la sua dettatura, e visto anche che lui era ormai uno scrittore famoso, ad un sovrintendente si affidò, un sovrintendente alla dettatura medesima, alla quale, un certo Payne, si deve la prima edizione dell'autobiografia nel 1924, 14 anni dopo la morte dello scrittore. Autobiografia che è stata pubblicata l'anno scorso per la prima volta in lingua italiana da Garzanti. Non a caso dunque Twain discredita la concezione di una memoria produttrice di copie perfette sia propria che altrui fin dal primo capitolo. Ricorda di suo fratellino che 7 giorni dopo la nascita si infila in un incendio, ricorda se stesso a 6 settimane mentre aiuta il nonno a bere la sua bevanda preferita fatta di whisky e acqua zuccherata, ma crede di ricordare e crede anche di sapere che quando era giovane ricordava ogni cosa accaduta o no, mentre sa anche che presto ricorderà solo le cose che non sono mai accadute. Palesemente, direi, ci specula sopra. Da un lato combatte la prosopopea di chi vuole trasmettere soltanto rendiconti esatti e dall'altro si costruisce un buon alibi per eventuali infortuni. Anzi, c'è da credere che per coerenza ideologica e stilistica molte sue pagine siano, come dire, appositamente contraffatte, piene zeppe di infortuni voluti. Un certo rispetto per la memoria altrui, Twain sembra nutrirlo per il notevole e inconfutabile esempio dell'esperienza di Helen Keller. Lo afferma già sul finire del primo capitolo, senza stare a dilungarsi oltre, come se questa Helen Keller e quella sua esperienza fossero così noti al pubblico dei suoi potenziali lettori da non meritare ulteriori precisazioni. Temo che oggi siano pochi coloro che si ricordano di Helen Keller. Era nata a Tuscumbia, in Alabama, il 27 giugno del 1880. Il padre credo fosse il proprietario del giornale locale. A 9 mesi, in seguito a forti febbri, si dice così quando non si sa un nome preciso di malattia, Helen perde l'uso della vista, della parola e dell'udito. A 7 anni utilizza un lessico di 60 segni per comunicare con i suoi familiari e nel 1904, 24enne, mentre scrive il suo libro più famoso che si intitola Storia della mia vita, dove ricorda o crede di ricordare le esperienze a cui si riferisce Mark Twain, 24enne si laurea, imparerà più lingue e si avventurerà in numerosi campi del sapere. Né Il mondo in cui vivo, un libro di cui possiedo una ristampa pubblicata dai fratelli Bocca nel 1923, La Keller dedica il meglio di sé alle analogie fra le percezioni sensoriali, all'analisi del tatto e a quella dell'olfatto, senso che lei definisce angelo decaduto e che in lei diventa di rara capacità. Per esempio osserva che tutti i bambini esalano il medesimo odore, puro, semplice, indecifrabile, come la loro dormiente personalità, e che non è che verso i 6 o 7 anni che incominciano ad avere un percettibile odore individuale, un odore che maturerebbe con le loro facoltà fisiche e intellettuali. Di Helen Keller possiedo anche un'immagine. Si tratta di una fotografia pubblicata dal settimanale Oggi nel luglio del 1965, 3 anni prima che lei morisse. In tono con le esigenze di rarità mondana del giornale, la didascalia dice che Helen Keller si è lasciata eccezionalmente fotografare in occasione del suo 85esimo compleanno. Vi è ritratta seduta in un'ampia poltrona di vimini, con il golfino aperto su una camicetta a motivi floreali, con una copertina sulle ossute ginocchia. I capelli sono raccolti in una piccola crocchia alla francese, sul cocuzzolo, non sulla nuca. In grembo ha un foglio di carta che, in onore alla completezza di questo genere di informazioni, qualcuno potrebbe pensare essere una pagina scritta in braille. E fra le mani tiene un vasetto di vetro da cui fuoriescono 2 rose, una che va per i fatti suoi e una invece indirizzata al suo naso. Si è indotti a pensare che lei abbia vissuto di poco, ma o lei o il fotografo o tutti e due complici in quella posa non hanno saputo rinunciare a metterci tutto